Ciao a tutti, bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time. Allora, per iniziare questa nuova puntata di Soul Time su Radio Wombat, inizierei con un artista storico per quanto riguarda la scena Northern Soul inglese. Questo artista si chiama J.J. Barnes. J.J. è nato nel novembre del 1943 a Detroit, nel Michigan, ed è appunto un cantante americano di musica R&B e soul. Cantante e soprattutto cantautore. La figura di J.J. Barnes è molto molto importante per il Northern Soul. Infatti il suo primo singolo fu registrato negli Stati Uniti nel 1960 per delle etichette come Mickey e Rick-Tick, ma hanno avuto relativamente poco successo. Però questi singoli poi sono sbarcati grazie ai DJ e ai collezionisti di soul in Inghilterra e sono stati accolti con grande successo appunto nel Regno Unito. Poi dopo qualche anno, su raccomandazione del suo amico Edwin Starr, J.J. Barnes si trasferì in Inghilterra nel 1970, diventando molto molto popolare. Starr organizzò infatti per Barnes diversi spettacoli che portarono appunto J.J. Barnes a firmare un accordo con la Contempo. Uno dei suoi singoli di maggior successo nel Regno Unito e nella scena Northern Soul è quello che stiamo per ascoltarci. Questo pezzo si chiama Real Humdinger e ci ascoltiamo J.J. Barnes. J.J. Barnes con Real Humdinger, singolo che tra l'altro fu ristampato in Gran Bretagna dalla Tamla Motown proprio per soddisfare gli acquirenti di dischi Northern Soul. Quindi proseguiamo con il prossimo brano, questa volta ci spostiamo direttamente negli Stati Uniti e ci andiamo ad ascoltare un nome leggendario, una vera e propria icona della musica a 360 gradi. Il nome in questione è quello di Stevie Wonder. La musica di Stevie Wonder, alcuni singoli sono anche molto molto apprezzati all'interno della scena Northern Soul. Cioè, né storici né dirò pochissimi su Stevie Wonder, perché appunto è un personaggio famosissimo. Stevie Wonder, cantautore, polistrumentista e compositore statunitense, una personalità musicale capace di imporre a 360 gradi il proprio linguaggio all'interno della black music. Famosissimo il suo uso di sintetizzatori, clavinet e tantissimi, tantissimi intrecci con diversi generi musicali, sempre all'interno della black music. Ci andiamo ad ascoltare questo brano di Stevie Wonder che si intitola Uptight, tra parentesi, Everything's Alright. Lui è Stevie Wonder. Stevie Wonder con Uptight. Proseguiamo la puntata con un altro gruppo storico per quanto riguarda la scena Norden. Loro sono i The Golden Strings Sanremo, o Sanremo Golden Strings, un gruppo prettamente da studio di Detroit. Abbiamo iniziato con la scena di Detroit questa puntata con J.J. Barnes, quindi ritorniamo nel Michigan, a Detroit per l'esattezza. Appunto, i Sanremo Golden Strings aveva diversi membri al suo interno, tra cui alcuni della Detroit Symphony Orchestra, mentre altri erano membri della band di una delle varie band di supporto della Motown, come i The Funk Brothers. Nel corso degli anni hanno rilasciato diversi brani stampati per l'etichetta Rick Tick, Motown e Gordy. Uno dei loro singoli di maggior successo è proprio quello che stiamo per ascoltarci, che si intitola Festival Time. Loro sono i Sanremo Golden Strings. We'll be right back. accorgi che l'America sta qua. E ritorna in onda la rubrichetta presentata da Toto Cutugno. Siccome ci siamo ascoltati i Sanremo's Golden Strings, mi è venuto abbastanza spontaneo in mente questo pezzo. È un pezzo di Wilson Pickett, un'altra figura leggendaria della musica soul. Wilson Pickett ha partecipato per ben due volte al Festival di Sanremo. Nel 1968 cantando la canzone Deborah insieme a Fausto Leali, mentre l'anno successivo partecipò con il brano Un'avventura, un brano allora ancora relativamente poco conosciuto di Lucio Battisti, che in tanti tantissimi conosceranno. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo pezzo live per la rubrica L'America sta qua di Wilson Pickett live a Sanremo, che si intitola per l'appunto Un'avventura. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Quest'amore non è una stella. Questo era Wilson Pickett con la sua inconfondibile voce in questa reinterpretazione del brano Un'avventura direttamente dal Festival di Sanremo. Quindi proseguiamo con il prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare, proseguiamo con le voci leggendarie. Tra l'altro il prossimo brano che ci ascolteremo è un brano delle Marvelettes, altro gruppo storico della scena soul. Le Marvelettes furono il primo gruppo femminile di successo della Motown Records, un gruppo attivo negli anni 60, e furono il primo gruppo femminile di grande successo prima dell'esplosione di quello che può essere definito un vero e proprio fenomeno, come il fenomeno delle Supremes. Il primo singolo delle Marvelettes è un singolo famosissimo, Please, Please Mr. Postman, di cui si ricorda anche la cover dei Beatles del 1963. La loro carriera durò in tutto 9 anni, precisamente dal 1960 al 1969, e tirarono fuori in questi 9 anni tantissimi singoli spettacolari. Uno di questi che stiamo per ascoltarci si intitola I'll Keep Holding On. Queste sono le The Marvelettes. Grandissimo pezzo delle Marvelettes. È già pronto il prossimo pezzo che ci ascolteremo, che è cantato dagli The Spinners. Gli Spinners sono un gruppo americano rhythm and blues che si è formato a Detroit, quindi continuiamo con la scena di Detroit, di cui ci siamo già ascoltati diversi brani nel corso di questa puntata. Gli Spinners hanno pubblicato tra il 1960 e il 1970 una serie di pezzi di gran successo. Sono tuttora in attività, tuttora in tour, con Harry Van Brogue come unico membro originale del gruppo. In Inghilterra i The Spinners erano conosciuti anche come Spinners Motown a causa delle loro registrazioni degli anni 60 con l'etichetta per l'appunto Motown. Venivano chiamati in questo modo nel Regno Unito per evitare confusione con un gruppo folk britannico che si chiamava anch'esso The Spinners. Quindi ci ascoltiamo questo brano che si intitola What More Could a Boy Ask For? Everything that my heart desires, that's why I shy. Now listen, let me tell you, has a gentle touch with tenderness in her eyes. Yeah, she's understanding, yet so firm and fair. That's why I want to say, ooh, I just want to say, so come on. Con What More Could a Boy Ask For. Con il prossimo pezzo invece ci andiamo ad ascoltare una grandissima voce, che è la voce di Gladys Knight, al secolo Gladys Maria Knight, una cantante di Atlanta nata nel 1944. È una cantante nota soprattutto per i suoi successi durante gli anni 60 e 70 con le etichette Motown e Buddha's Records, insieme appunto al suo gruppo Gladys Knight and the Pips, di cui fecero parte al massimo del successo anche suo fratello e i suoi cugini. Ci andiamo ad ascoltare quindi un pezzo di Gladys Knight and the Pips che si intitola Just Walk in My Shoes. Walk in my shoes. This hurt inside is too much for me. Just walk in my shoes. You'll see I want the love that used to be. Drown my heartache. Go ahead and try it on for size. Just walk in my shoes, then you'll see through someone else's eyes what you've done to me. I fell apart when you walked out. New day, wear the cloak of love. Eccoci di nuovo in studio. Visto che le abbiamo citate prima, a questo punto direi di andarci ad ascoltare questo gruppone che si chiamano The Supremes, con questo pezzo che si intitola There's No Stopping Us Now, The Supremes. There's no stopping us now, now that we found our way. Queste erano le Supremes. Visto che questa puntata ormai ha preso un'onda Motown, direi di rimanere quindi sulle sonorità tipiche Motown. Ci andiamo ad ascoltare un gruppo storico. Loro sono i Four Tops, che abbiamo ascoltato e continueremo ad ascoltare molto qui a Soul Time. I Four Tops sono un gruppo appunto fondato a Detroit, inizialmente con il nome di The Four Ames. È famoso almeno all'inizio perché il principale cantante, Levi Stubbs, era un baritono, mentre tutti gli altri gruppi avevano come voce principale un tenore. I Four Tops hanno pubblicato anche loro tantissimi tantissimi singoli stra popolari. Uno di questi che ci andiamo ad ascoltare adesso, il tempo di prepararlo, eccolo qui, si intitola I'll Turn to Stone, The Four Tops. Oh, The Four Tops con I'll Turn to Stone. Quindi ormai la piega è questa. Continuiamo con la Motown, continuiamo con Detroit, perché dopo esserci ascoltati i Four Tops, che furono uno dei gruppi che aiutarono a definire il riconoscibile, riconoscibilissimo stile musicale della Motown degli anni 60, insieme a The Miracles, Martin Vandellas, The Marvelettes, Temptation, Supremes e compagnia bella. Quindi proseguirei a questo punto con un pezzo delle The Velvets, e questo pezzo nello specifico si intitola These Things Will Keep Me Loving You, The Velvets, Motown Records. Ultimo pezzo di questa puntata di Soul Time sulle frequenze di Radio Wombat. Concludiamo con un'altra voce storica, ne abbiamo ascoltate tantissime in questa puntata. Chiudiamo con Marvin Gaye e questo pezzo che si intitola Little Darling, I Need You.